la versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori Radio 24, mercoledì, siamo al 1° luglio, 16:30, primi 25 secondi, ve lo dico subito così iniziate a decidere se volete intervenire all'800 24 00 24. Gli sms come sempre 349 238 6666, prosecuzione obbligata dello stesso tema che abbiamo trattato ieri con la stessa domanda rivolta a voi. Stiamo parlando di Grecia, del referendum sulla Grecia. Ora vi darò gli aggiornamenti di giornata fino all'ultimo minuto, ma la domanda che rivolgo a voi per continuare a sentire la vostra opinione, perché ieri sono arrivate tantissime telefonate, ne abbiamo sentite pochissime rispetto ai tanti, e quindi confido che vorrete anche oggi intervenire per rispondere alle seguenti domande. Sareste favorevoli anche voi oppure no, e perché, a referendum su l'EU, i programmi di aiuti condizionati per la finanza pubblica chiesti dalle autorità europee? Se foste in Grecia votereste sì o no, e perché, da quello che avete capito? Cosa potete immaginare fino a questo momento che succeda se vincano i no o se vincono i sì? Perché sapete che se vincono i sì probabilmente Tsipras si dovrebbe dimettere, anche se la novità di giornata, vedrete, fa capire che stiamo andando forse perché qui cambiano le cose di ora in ora verso un altro scenario. Comunque telefonateci e diteci la vostra all'800 24 00 24. Ieri abbiamo appurato che c'è una parte di ascoltatori che dice no, è meglio non tenere referendum su materie così complesse, perché la rappresentanza in politica serve esattamente a dipanare questioni così complesse, ma ci sono tanti altri che dicono invece basta con gli accordi nati da burocrati non eletti come quelli della Commissione, e bisogna sentire anche la sovranità popolare. Ricordo a tutti che per Costituzione noi comunque in ogni caso non possiamo tenere referendum. Il Movimento 5 Stelle ha raccolto 200.000 firme circa per una proposta di legge costituzionale popolare per modificare la Costituzione e tenere il referendum. La Lega, che pure è per una posizione molto dura, anti-euro, considera l'iniziativa dei 5 Stelle come una iniziativa finta, perché tanto quel referendum non si può fare con la nostra Costituzione. Qualcuno avrà letto l'intervista di Salvini a Sole 24 Ore, in cui oggi precisa peraltro che la Lega non è che chieda l'uscita dall'euro secca, si riserverebbe di valutare, per così dire, le ipotesi. Quindi è un'intervista un pochino più morbida dei toni che Salvini usa nei comizi e in televisione, ma comunque noi vogliamo ascoltare la vostra opinione, e stiamo aspettando un ospite al quale chiediamo un aspetto che fin qui non è stato considerato nei moltissimi pezzi televisivi, radiofonici, dei giornali dedicati alla vicenda greca. Cioè vogliamo sentire il polso delle molte imprese italiane che lavorano in Grecia, e quindi stiamo aspettando di collegarci con il presidente della Camera di Commercio Italo-Ellenica ad Atene. Perché? Perché è vero che tutti si sono preoccupati di ricordare l'esposizione dei crediti che abbiamo dato come Italia alla Grecia e che rischiamo di non vederci ritornare indietro. Il governo dice che sono 36 miliardi, ma è anche vero che poi c'è un flusso di economia, di interscambio che ci lega alla Grecia, nel senso che non è sicuramente il nostro export rilevantissimo, però c'è, perché l'anno scorso è stato pari a 3,7 miliardi di euro, la metà secca rispetto a quello del 2008 del pre-crisi, ma ci sono molte imprese italiane che lavorano in alcuni settori a cavallo esattamente tra Grecia e Italia, e quindi ho ritenuto interessante chiedere al presidente della Camera di Commercio Italo-Ellenica di Atene che aria tira tra le imprese italiane che fanno parte della Camera di Commercio Italo-Ellenica, che cosa hanno avvertito in questi mesi di crisi crescente, se ci sono ritardi di pagamento, che tipi di problemi ci sono e che cosa si aspettano gli imprenditori italiani che operano lì all'indomani della scelta del referendum. Ecco, vedo che è collegato con noi appunto il presidente della Camera di Commercio Italo-Ellenica di Atene, si chiama Ioannis Tsamikas, se pronuncio bene il cognome. Buon pomeriggio e grazie Presidente. Grazie, buonasera a tutti, buonasera ai vostri ascoltatori. Infatti in questo momento la Grecia soffre di una crisi, ma particolarmente le imprese italiane, perché sono di settore di alta tecnologia, non soffrono ancora questi problemi che soffrono le imprese greche. Qui abbiamo la Edison, il Edison di energia, la quale è un investimento oltre 860 milioni di euro, le quali fin questo momento procedono bene senza nessun problema. Sono le Barilla, produzione dei spaghetti italiani, i quali costituiscono il headquarter delle esportazioni della Barilla in Europa. Funzionano bene, le Generali, la grande società e più vecchia società operazioni in Grecia. Vorrei dirvi che fin questo momento non abbiamo nessun veramente problema, però con il referendum che speriamo lunedì mattina sarà data la risposta di no al referendum e di procedere in Europa, perché vogliamo essere in Europa, vogliamo essere in euro, perché infatti questo referendum in questo momento costituisce una scelta tra euro e non euro. E la situazione in questo momento in Grecia è pesante, questo particolarmente nel momento in cui sto parlando mi trovo alla riunione dei industriali greci, dove sono invitato per fare un intervento per le imprese italiane che veramente costituiscono onore in questo paese, perché pochi conoscono che la importanza dell'Italia in Grecia. Infatti in questo momento siamo veramente alla grande in questo paese. Senta, l'atmosfera che c'è nel mondo dell'impresa greca, naturalmente nella piena libertà, non le chiedo né opinioni politiche né dichiarazioni di voto, ma l'atmosfera che c'è nell'impresa greca nei confronti del referendum è quella di considerare preferibile i vantaggi di rimanere, malgrado tutto, a costo di altri sforzi e sacrifici, nell'area della moneta comune, oppure ci sono anche settori che dicono nelle condizioni in cui siamo ridotti, meglio incamerare un danno nel breve molto rilevante se si torna dalla dracma, ma poi beneficiare nel medio-lungo periodo degli effetti di una svalutazione monetaria che sarebbe molto forte e che ricostituirebbe anche motivi di vantaggio negli scambi. Secondo lei queste due opinioni quanto pesano all'interno del mondo imprenditoriale greco? Pesano moltissimo a favore dell'euro. Come vi ho detto, in questo momento mi trovo alla riunione industriali greci, dove esistono i diversi interventi dei rappresentanti delle industrie greche, quelli che sono rimaste, tutti sono a favore dell'euro, nessuno non vuole entrare nell'avventura della dracma e della svalutazione dell'euro in Grecia, al contrario, tutti sostengono che dobbiamo andare avanti con i sacrifici, però è creato la plusvalenza. Un'ultima questione ancora, poi la lascio alla sua riunione, so che deve tornare alla sua riunione. Tra le proposte non accettate dall'Unione Europea, ma comunque poi daremo conto anche degli sviluppi di giornata, quindi ascoltatori vedrete che ci sono sviluppi comunque in corso, è vero che non avverrà nessun accordo prima del referendum, però la lettera che Tsipras ha mandato alla Commissione Europea questa mattina pare indicare una prospettiva, ma comunque nelle proposte che il governo Tsipras ha mandato ieri all'Eurogruppo, Tsipras conferma in realtà di volere, in caso di accordo, una parte molto rilevante di accrescimento delle entrate che è proprio concentrata sulle imprese, perché c'è una imposta sui sovrapprofitti sopra i 500.000 euro e un innalzamento del prelievo generale sulle imprese. Da questo punto di vista, Presidente, le imprese greche sono disponibili anche a questo secondo lei? Sì, sì, lo garantisco di sì, perché credono che può essere fatta una nuova trattativa tra poco, perché le trattative portate da questo governo sono state veramente pesanti e portate in una brutta maniera, per essere franco. Mm-hmm. Le imprese greche in questo momento sono disposte di subire ogni sacrificio per basta di continuare in euro. Guardate, solamente le esportazioni italiane verso la Grecia superano i 4 miliardi e mezzo di euro, sì, mentre le esportazioni greche verso l'Italia sono 1 miliardo e 700 milioni, sì. Milioni di euro. E allora capite che questo momento di un aumento di 5%, 6% non gioca alle loro politiche commerciali. Benissimo, allora io ringrazio intanto il Presidente della Camera di Commercio Italo-Ellenica, buon lavoro, e ci ha dato una, così, una testimonianza diretta sia di quello che pensano le imprese italiane che sono in Grecia, sia che è quello più importante del il polso delle imprese greche che vogliono rimanere in euro. Naturalmente per quello che conta, perché poi i voti si contano, saranno tutti gli elettori a farlo. Nei sondaggi in realtà il no è passato in testa da ieri. Sul sì all'accordo, cioè il no all'accordo significa dare ragione a Tsipras rispetto alle proposte europee, e in vantaggio è il sì, è a 33-35%. Tutti dicono che negli ultimi giorni tutto può cambiare, però attenzione che dare per scontato la vittoria del sì, come sembrava all'inizio della settimana, non è affatto una cosa da dare per certa. Quali sono gli sviluppi di giornata prima di iniziare a sentire la vostra opinione? Sapete che ieri Tsipras, di fronte a questa iniziativa di Juncker la sera prima, ha mandato una lettera che ha fatto di nuovo infuriare tutti i governi europei, a cominciare da quello tedesco, perché nella lettera non ha risposto alle richieste che Juncker, bisogna pensare a questo punto, ha fatto a titolo personale, altra inusuale cosa, che il Presidente della Commissione abbia riaperto la trattativa senza sentire i governi, e Tsipras gli ha risposto con due paginette nel quale chiedeva 30 miliardi in tre anni con il diretto accesso a un programma di ristrutturazione del debito da parte dell'SM, il veicolo europeo che ha sostituito l'FSF, appunto destinato alle operazioni straordinarie di sostegno ai membri dell'euroarea. Tutto questo senza dire una sola parola sul fatto che per avere accesso all'SM quello è un processo che consente gli aiuti solo con condizionalità molto forte, cioè con un programma dettagliatissimo di misure da assumere. Quindi questa non era la risposta di Tsipras, non c'era, ha fatto infuriare tutti, e quindi i tedeschi hanno ribadito a questo punto non ci sarà più nessun accordo se non dopo il contati i voti del referendum. Ma nuova novità questa mattina, perché Tsipras ha aggiunto un nuovo documento a integrazione di quello di ieri, che non smentisce quello di ieri, quindi comunque la Grecia chiede di entrare in un programma di sostegno pluriennale SM, e quindi significa evitare che il Fondo Monetario sia al tavolo, come è stato fino a questo momento, ma ha aggiunto, grande sorpresa, il riferimento diretto alle ultime proposte venute dall'Unione Europea, e limitando delle obiezioni a 5 punti non poi così fondamentali, perché sull'IVA si limita a dire va bene quello che volete voi, tranne il fatto che rimane il 30%, cioè l'agevolazione del 30% di taglio sull'IVA alle isole, che è fondamentale per il turismo greco. Sulle pensioni va bene anticipare, come dite voi, il taglio alle baby pensioni, non va bene però per noi l'integrazione al minimo neanche per i redditi medi, e questo è un punto fondamentale per loro. Però insomma sono 5 dettagli, perché per la prima volta Tsipras è entrato nel merito delle proposte europee. Quindi, poiché anche stamattina la Merkel ha ribadito no, a questo punto l'accordo è solo dopo il voto e si rivedrà su che basi, nel frattempo gli aiuti sono sospesi, Renzi questa mattina, parlando all'Università Humboldt, perché è in corso il vertice con la Merkel bilaterale, anzi credo che sia finito a quest'ora, ha ribadito che anche l'Italia è sulla posizione tedesca, quindi accordo solo dopo il referendum. Anzi, Renzi ha detto parlare del referendum, come ha fatto Juncker, prima che si tenga, entrare di nuovo nelle proposte è un errore, è solo un aiuto a Siriza e ai contrari dell'euro. Quindi Renzi è stato fortemente filo tedesco parlando questa mattina, a dire la verità. Ma la lettera di Tsipras questa mattina apre uno spiraglio a quello che può avvenire da lunedì, apre allo spiraglio, cioè al fatto che Tsipras si sta precostituendo una posizione per la quale, se dovesse vincere il sì, cioè perdere lui, sulla base della lettera di questa mattina è comunque lui che tratta e non si dimette, da quello che ho capito. Ecco, questo è il confuso quadro della giornata. Comunque mi pare di poter dire che accordi oramai non ce ne saranno più, ma la verità è che il ponte di una trattativa, come vedete, non si interrompe. Non voglio dare giudizi su come siamo arrivati a queste follie incrociate, però ci siamo. Allora, iniziamo a questo punto a sentire la vostra opinione intorno al referendum. Cominciamo con Matteo da Milano. Prego Matteo. Sì, buongiorno, buongiorno. Ma io sono dell'idea che alla fine la Grecia non si può farla fallire, perché comunque sfido a trovare altri stati con il debito pubblico così alto come il nostro che riescono a ripagarlo, cioè sostanzialmente sono pochissimi gli stati al mondo che possono ripagare il proprio debito pubblico, quindi mi sembra scontato che non possa fallire, semmai andrà, a mio avviso, rinegoziato o ristrutturato. Ma che è quello che i greci chiedono da mesi, a dire la verità, e l'Unione Europea, siccome il debito è detenuto oramai per la maggior parte non più da privati ma dagli stati, dicono di no. Anche secondo me il punto è che nelle condizioni attuali della Grecia non esiste una prospettiva di ripresa della crescita a breve tale da renderla solvibile, cioè da farla tornare sui mercati se non dopo molti anni, e quindi secondo me noi rischiamo di più a sbatterla fuori e a rimetterci tutti i crediti piuttosto che rinunciando da subito a una percentuale del totale dei crediti, cioè a ristrutturarlo. Io ne faccio proprio un conto di costi-benefici, per così dire, ho provato a fare due conti, l'ho anche scritto su due giornali. Detto questo, Matteo pone un problema che è relativo alla serietà delle trattative, perché i costi-benefici, su cosa ci si perde di più a sbatterli fuori piuttosto che a ristrutturare il debito, la verità è che voi non li avete visti, perché nessuno li ha fatti bene sulla carta. Sono conti imprevedibili, perché non possiamo sapere cosa succede in caso di casini sui mercati, perché lì non può prevederlo nessuno, però è un criterio per definire una trattativa logica, quello dei costi-benefici. Qui non li abbiamo fatti su quello che chiedevano i greci, e Matteo dice non mi sembra molto intelligente. Io la penso come lui. 60 secondi di informazione stradale, poi torniamo con le altre vostre telefonate. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta alle 16:48, primi 12 secondi, con le vostre telefonate sul referendum. Intanto riassumo alcuni e richiamo alcuni dei vostri sms. C'è chi dice avrei preferito per esempio che prima l'ingresso all'euro si tenessero dei referendum, e in quel caso forse spiegando e facendo capire bene che entrare in una moneta senza poterne uscire rispetto alle condizioni di forti vincoli quando si abbassa produttività, io penso che molta gente avrebbe detto no fin dall'inizio, tema anche questo serio, molto serio. Del resto questo è il motivo per cui non ce li fanno fare i referendum in Costituzione su queste materie qua, perché non si fidano di noi, perché siamo dei bambini. Il motivo per cui in Costituzione italiana non si possono fare i referendum fiscali sui trattati, io sarei per levarla questa. Invece anche nella Costituzione in via di modificazione in Parlamento resta questa clausola, e vabbè. Altri dicono se dovesse poi succedere un governo con lo Tsipras che taglia molto la spesa pubblica, io voterei sì. Come è evidente, tutta questa voglia di tagliare la spesa in Grecia non c'è, questo è il punto vero, quindi non ci conterei molto su questo sviluppo. Altri dicono spero che vinca il no per vedere poi se si verifica tutta questa tragedia annunciata dell'abbandono, posizione che rispetto, tranne che è un esperimento in corpore vili, cioè sulla carne della gente, soprattutto di chi sta peggio, perché questo è quello che capita, però anche questa è un'opinione. Michele da Salerno invece come la pensa? Michele, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, salve. Io frequento la Grecia da diversi anni e mi sono trovato anche dal passaggio dracma euro, e poi proprio l'anno prima, l'anno dopo, quando cominciò la vera e propria crisi greca. Sì. E devo dire che è sotto occhi di tutti. Ora non sono un economista, però seguo molto il vostro canale e spesso mi trovo con gli economisti che non so per quale motivo lavorano all'estero come professori, insegnanti, però in Italia non vengono assolutamente ascoltati, quando dicono che purtroppo ogni volta che la Troica, che ora non c'è più, ha dato un compito, diciamo, a casa, ha assegnato un compito a casa alla Grecia l'ha fatto, la Grecia successivamente si è sempre trovato un peggio. Quindi adesso non voglio dire che c'è dietro un piano, però alle volte a pensar male ci si azzecca. Non so se mi sentite. No, la sto ascoltando, però lei dice c'è stato un piano per mettere in ginocchio la Grecia, con che vantaggio? C'è stato un piano. Magari hanno sbagliato la ricetta. Questo è quello che volevo dire, che non credo che dietro ci sia stato un piano. No, ho capito. Sicuramente gli effetti, qualcosa di sbagliato c'è stato, e gli effetti sono sotto gli occhi di tutti. Sono ingegnere e qualche grafico lo riesco certo, a leggere, come no. Se lei legge puntualmente quando la Troica dava un compito alla Grecia, tipo licenziare 40.000 statali, fare questo, fare quello, e i greci rispettavano questi accordi, puntualmente la situazione greca andava peggiorando. Allora, in questo, Ferruccio, devo dire, per darle ragione e ricordarlo a chi è in ascolto, che il Fondo Monetario, per parte sua, ha ammesso 9 mesi fa di aver sbagliato le ricette nel 2011 e 2012. L'ha proprio ammesso ufficialmente, nel senso che i moduli degli interventi e le attese degli effetti sia sull'economia reale che sugli investimenti, dice, li abbiamo sbagliati. In altre parole, facile predire misure restrittive della spesa sulla carta, se però non tengono conto delle possibilità attuative, del ritardo della pubblica amministrazione nel farlo, delle resistenze nel farlo e così via, gli effetti diventano, i negativi si incamerano, quelli positivi non si vedono, e questo è un punto di fondo. Per esempio, l'elevamento a 67 anni dell'età pensionabile scaglionato in 30 anni, come capite, gli effetti a breve sul saldo da pagare per le pensioni non c'è, perché nel frattempo i cinquantenni in pensione a cui si pagano le pensioni in Grecia, sono la percentuale più alta in Europa, quelli restano, e così via. Quindi ricette sbagliate, ci dice il nostro ascoltatore ingegnere. Ferruccio da Milano, come la pensa? Io penso che Tsipras dovrebbe fare i calcoli, fare una specie di germanizzazione del debito greco, cioè vedere quanto avrebbe pagato se i tassi di interesse fossero stati quelli greci, e provare a grecizzare il debito tedesco, perché i greci di fatto il debito l'hanno già pagato. L'hanno già pagato, perché se ogni anno invece di pagare, che so, il 2% di interesse pagano il 10% e tirano fuori un 8% che dovrebbe andare a ridurre il capitale da versare alla fine, e dato che questa cosa va avanti da quando c'è la moneta unica. Però aspetta, Ferruccio, questo che dici tu riguarda gli anni pre-2010, perché quelli successivi, dopo i due interventi, loro hanno un onere sul PIL che è inferiore al 2% del PIL, noi siamo quasi al 5% come Italia, quindi in questi anni gli abbiamo ridotto gli interessi al minimo da pagare, quindi, però capisco quello che dici tu sugli anni precedenti. Questo conto del resto è un conto che anche l'Italia dovrebbe fare, ricordando che noi prima della moneta unica eravamo arrivati a pagare il 12% di PIL annuo sugli interessi su il debito pubblico espresso in lire, argomento che, quando cito io, gli economisti anti-euro come Bagnaia Borghi mi coprono gli insulti dicendo che è da asini ricordarlo, e vabbè, e allora non so cosa dire. Ma la comparazione degli effetti dell'onere del debito pubblico pagato rispetto agli altri, questo è un criterio da tenere sempre presente. Ringrazio l'ascoltatore, sentiamo Gaetano da Savona, prego, come la pensi? Buongiorno Giannino, volevo una curiosità che lei probabilmente saprà così esaudire. Vediamo. Allora, il finanziamento alla Grecia, non è che le banche ci hanno montato su una montagna di derivati come hanno fatto con Lehman Brothers? Perché se lo hanno fatto, qui andiamo a carte 48 veramente tutti. Dunque Gaetano, la risposta, dei 320 miliardi che costituiscono il debito pubblico dopo l'abbattimento, ripeto, del 60% del valore preesistente al 2012, quello detenuto dai privati, che non c'è più, sono per oltre quasi il 90% nelle mani di creditori pubblici, tra Fondo Monetario, BCE, paesi diretti dell'Eurozona con programmi bilaterali e gli veicoli europei FSFSM. Quindi da questo punto di vista le banche non ci sono praticamente più, se non per un ammontare molto ridotto di quei 320 miliardi. Quindi la questione è proprio della natura dei creditori, che sono pubblici, e dell'Europa che non vuole rimetterci i soldi perché i creditori sono pubblici. Questo è il problema, cioè sono i contribuenti europei oramai chiamati in prima persona a vedere quei soldi andare in fumo, prestati alla Grecia, ripeto, dopo la ristrutturazione del 2012. Prima abbiamo fatto rientrare le banche che erano molto esposte sulla Grecia, soprattutto quelle francesi e tedesche. Gaetano da Napoli, come la pensa Gaetano? Buonasera Giannino, mi sente? Sì, la sento, dica. Allora, io penso che praticamente la Grecia non uscirà mai dall'Europa, perché per la posizione geografica che ha. Abbiamo visto come Obama ha fatto pressione sulla Merkel, come no, per non far uscire la Grecia. Certo. Come ha parlato con il nostro Renzi. Abbiamo visto come Putin si è fatto avanti. A Putin smontare un pezzo di Occidente nel Mediterraneo non dispiacerebbe, diciamocela tutta. Quindi Gaetano ci sottolinea che c'è un problema geopolitico ed è un altro pezzo del problema. Daniele da Torino come la pensa? Daniele da Torino. Sì, la mia più che un pensiero è una testimonianza. Noi abbiamo un'azienda in Grecia, Salonicco, e in questo momento non riesce a operare perché abbiamo fondi sui conti correnti che sono bloccati. Non riusciamo a pagare materie prime che arrivano dall'estero perché dovremo fare bonifici da Grecia su estero, sono impediti. Lei si augura che vinca il sì o no? Che Tsipras o chi vuole l'accordo? Noi abbiamo una piccola azienda in società con un socio greco che è una grossa azienda. Io girando, parlando un po' con la gente di tutti i livelli, sociali, chi lavora è sicuramente per il sì, per mantenere l'euro. Ok, vedremo se questo sarà l'esito. Intanto continueremo con le nostre puntate a sentire la vostra opinione. Continuate con la 24, appuntamento come a domani.